Turista! Benvenuta a questa ennesima puntata di Permettete Signora! Siamo sempre noi e tria! Sempre rompe palla la gente, sempre gli appiglia botte! Ecco qui la sagra della castagna, e se mesce la celeberrima è buona! Maria Francesca! Oi paesienti, io stasera vi addio a Ruscecca che c'è niente errante, vedete, muova che mi ne è. Ma che te ne frega, c'è zio Pino tuo, e poi c'è pure per Francesco! Buonasera a tutti, zio Pino, buonasera! Per Francesco, dicemi una cosa, sincero, ti piacciono i castagni? Oi zio Pino, guarda, faccio una mangiata di scattagni e castagni, che fanno pow pow! Come piacciono le banane, sì, buono, non capite, se no ti finisci mo ciò ci va tutto l'ortolano, frutto vendolo e cucuzzaro pure. Vediamo da finisce per Francia. Comunque andiamo in questi stand e vediamo che c'è. Ah, ma com'è? Ne tiene castagne? No, tengo pesce fresco. Ah, ma com'è? Non ti incazzare. No, mi incazzo se. Casigno che è venuto niente. Babbo, amico mio, non disturbiamo più, ce ne andiamo. Quest'altro signore, eccolo qua. Buongiorno! Buongiorno! Iara, ma si proprio tu, fatti toccare, fa! Ma ti devi sembrare a te la visione! Sì, capito, segno io, sì, ma... Tu ce la capisci, però un male c'è così, che la gente potesse capire male, eh! Scusa, per Francia, visto? Finalmente uno che ne conosce! Viva la televisione, viva la Rai, quando sono che ne caccia pure a noi! Io per complimenti alla sei dolce! Sì, basta questa canzone, ma guarda che spazio! Ma punta a barzelletti da sei dolce! L'ultima te la faccio dire io, vieni qua, per che bafango! Si può sbagliare la parata, ma... Basta! Insomma, parla sempre tu, per Francia, avessi pigliato la linea stasera! Ma mi fanno... Io sono caro. Allora, vediamo il nostro caro amico qua. Ti ringrazio, come hai fatto? Ma io ti devo sempre... fare i complimenti. Ma io ti vedo sempre a che la trasmissione. Chi la sua cosenza? E io faccio solo su trasmissione. Ma non si fa più di porto. No, signor Pino Pinotto, come cazzo è saggio? Pino Pinotto. Una volta ho mandato figlia, ma a dettia per fare a letto. Sai che è successo? Voglio dire, ma la trasmissione che finisce male, cazzo!